giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In Grecia, secondo i sondaggi, testa a testa tra il sì e il no, ma il 74% vuole restare nell'euro. Oggi le manifestazioni in vista del referendum di domenica. I costi per l'Italia in caso di Grexit, la stima di 11 miliardi è eccessiva, dice il Tesoro. Le aste di titoli di Stato saranno regolari. Si apre il processo per l'assassinio di Yara Gambirasio. Massimo Bossetti alla sbarra, la difesa chiede la nullità del prelievo del DNA. Scontri in Tunisia nel giorno della chiusura delle moschee a Sus, luogo dell'attentato di venerdì scorso. In Egitto si ricordano i 2 anni dalla caduta di Morsi. Altri 6 arresti nell'indagine sulla cooperativa modenese CPL Concordia per appalti nel Casertano e rapporti coi casalesi, indagato anche un ex parlamentare. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Anche oggi in diretta dall'Expo, in diretta dal padiglione Cibus e Italia, il padiglione di Federalimentare. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e poi il numero di SMS, il 349-238-6666 per la diretta. In apertura dunque torniamo sulla Grecia, dove sembra esserci equilibrio nei sondaggi tra il sì e il no al referendum. Abbiamo in diretta la nostra inviata Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Sì, anche ovviamente da qui si respira quest'aria proprio di paese spaccato a metà tra il sì e il no. Quindi si assottiglia la quota di indecisi che qualche giorno fa avrebbe potuto propendere o da una parte o dall'altra e quindi fare la differenza. Questa mattina ancora una volta il ministro delle finanze Varoufakis è tornato a ripetere che anche in caso di vittoria del no ci sarà comunque l'accordo con l'Europa e con i creditori. Intanto però l'alta corte greca ha acceso un faro su questo referendum, perché ha rilevato come ci sia stato poco tempo per prepararlo e come soprattutto il quesito sia molto poco chiaro, quindi potrebbe mettere in difficoltà ovviamente gli elettori. Ci sono anche oggi le solite file ai bancomat, però appunto file contenute anche in questa giornata. Certamente il controllo sui capitali sta creando qualche problema sia alle esportazioni che alle importazioni. E oggi su Catimerini, che ricordiamo è un quotidiano molto diffuso qui, c'è un articolo in cui gli imprenditori mettono in guardia: il paese potrebbe finire come l'Argentina. Molto allarmismo anche sulle prenotazioni turistiche. Stamattina però io sono entrata in un paio di tour operator e entrambi, tra l'altro in 2 posti diversi della città, entrambi mi hanno detto che non avevano avuto nessuna disdetta e non c'era stato alcun calo del lavoro in questi giorni. Per quel che riguarda la città in sé, posso dirti che questa mattina, a differenza degli altri giorni, Atene è piena di agenti, è piena di polizia, agenti a piedi, sia camionette sia moto, quindi la città è presidiata, e questo non solo nel centro della capitale ma anche in altre zone della città. Per il momento è tutto. E grazie a Valeria De Rosa per questo aggiornamento. Si ragiona sulle stime di un eventuale impatto sull'Europa ed evidentemente sull'Italia di una Grexit o comunque di un no al referendum. Oggi parla il direttore generale del Tesoro, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Le stime alle quali fa riferimento il Tesoro sono quelle circolate nelle ultime ore, in particolare affirma Standard & Poor's. L'agenzia di rating ha quantificato le conseguenze di un eventuale default di Atene in circa 11 miliardi di euro di maggiori interessi per l'Italia sul debito pubblico. Una stima questa che, secondo il direttore generale del Tesoro Maria Cannata, è però molto aggressiva e non si riesce a capire, spiega, come sia fatta, non ci sono elementi per giudicare. E se le stime di Standard & Poor's vengono valutate così dal Tesoro, che dire allora, Simone, di quelle circolate negli ultimi giorni? Anche se occorre ricordare che un conto sono i maggiori interessi sul debito, un conto l'esposizione generale del nostro paese verso la Grecia. In quest'ultimo caso stime della Banca d'Italia parlerebbero di oltre 50 miliardi di euro complessivi. Per Adusbef e Federconsumatori, eventuale uscita dall'area dell'euro scusate, della Grecia costerebbe invece al nostro paese 48 miliardi di dollari. Numeri non ne fa di sicuro in queste ore Palazzo Chigi. Il governo però rassicura e rimanda alle parole di due giorni fa in Parlamento del ministro dell'economia Padoan, che ha ricordato: non temiamo ripercussioni di ampia portata sulla nostra economia, l'esposizione delle nostre banche è limitata e la ripresa economica, il consolidamento dei conti e le riforme in atto sostengono la capacità di assorbimento di possibili shock. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, anche a te per questi aggiornamenti. Noi di Grecia torneremo a parlare più avanti nella seconda parte della trasmissione. Ospiteremo Enzo Moavero Milanese, l'ex ministro agli affari europei del governo Monti e che adesso insegna alla LUIS. Vi ricordo tra l'altro che al referendum greco Radio 24 dedicherà uno speciale domenica sera, e sarà quindi domenica sera che torneremo anche a parlarne. Veniamo alla cronaca italiana. È il giorno del processo davanti alla Corte d'Assise di Bergamo contro Massimo Bossetti, il muratore accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Tribunale di Bergamo sotto assedio per l'atteso inizio del processo contro Massimo Bossetti, il muratore accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Dopo oltre 5 anni dalla scomparsa della tredicenne, che fu trovata uccisa 3 mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011, 711 testi citati dalla difesa, 120 quelli dell'accusa. I giudici però decideranno il prossimo 17 luglio sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Massimo Bossetti, a cui si apposta la procura. I giudici, sempre in quella data, decideranno anche sulla missione in aula delle telecamere, contraria la famiglia della tredicenne uccisa. I difensori di Massimo Bossetti hanno chiesto ai giudici della Corte d'Assise di Bergamo la nullità del prelievo del DNA con un boccaglio nel corso di un controllo stradale simulato, da cui derivò che il DNA del muratore era lo stesso di ignoto 1. Il prelievo che ha incastrato il muratore doveva essere invece eseguito con le garanzie difensive, dicono. Nullo per la difesa anche il capo d'imputazione, che fa riferimento a due luoghi diversi per l'omicidio di Yara Gambirasio, Brembate di Sopra e Chignolo d'Isola. Bossetti c'è e intende seguire tutte le fasi del processo, ma non i genitori della ragazza uccisa. In aula non possono esserci nemmeno la moglie del muratore arrestato, né la madre, che sono state citate come testimoni. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo e torniamo a parlare di Egitto, a 2 anni dal colpo di Stato che ha deposto Mohamed Morsi, a 2 anni dalla deposizione di Mohamed Morsi, un Egitto che attraversa una fase, e ve lo stiamo raccontando in queste ore, di particolare tensione, di particolare scontro con il terrorismo, specie nel Sinai. Il punto di nuovo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Come si diceva, una fase di forte tensione questa nella quale ricorre questo anniversario. Sì, questo anniversario ricorre anche in mezzo a un Ramadan che per l'ISIS è il motivo di un invito alla mobilitazione generale, quindi doppiamente grave, anche perché c'è stata quella battaglia che solo ieri sera sarebbe finita. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate solo ieri sera ha annunciato che la battaglia è stata vinta e che il Sinai è stato ripulito dai terroristi, ma i terroristi li possono nascondere in qualsiasi luogo. Il rischio è che il presidente Al-Sisi, come ben detto, decida anche di condannare a morte, di eseguire l'esecuzione di una condanna già data a Morsi, l'ex presidente, una condanna a morte. Sarebbe solamente una vendetta inutile, oltre ad essere un'ingiustizia, perché Morsi è responsabile di tante cose, ma non certo di aver organizzato il terrorismo. E intanto anche dalla Tunisia continuano le tensioni, ci sono state delle manifestazioni, anche degli scontri contro la chiusura di alcune moschee, dalle quali sono partiti appunto i proclami, perché hanno portato poi gli assassini a fare i massacri sia al Bardo sia l'altro giorno in spiaggia. E il problema è proprio qua, il problema di fondo della soluzione e dalla stabilizzazione di questi paesi è proprio qua, cioè la necessaria chiusura, il necessario controllo delle moschee, cosa che in Egitto infatti Al-Sisi attraverso l'Università di Al-Azhar sta facendo. Al venerdì prima che i mullah, i sheikh, prima di fare il loro sermone del venerdì, il sermone il giorno prima deve arrivare all'Università di Al-Azhar e deve essere verificato che non abbia elementi di estremismo. Solo attraverso questa strada può passare forse la vera lotta al terrorismo. Più complicato tutto questo è, come anche abbiamo visto Ugo, forse proprio in Tunisia, dove non c'è una giunta militare ma c'è una democrazia quasi compiuta. Sì, indubbiamente per una democrazia è molto più complicato imporre queste cose. Il problema è che è proprio la democrazia, la sta naturalmente nel corso del tempo, non può essere una soluzione a breve, ma è solo la democrazia, solo un governo democratico che includa i cittadini, che crei istanze sociali, che crei politiche, che crei sviluppo, può risolvere a lungo termine il problema della dittatura. I dittatori, scusate, dell'estremismo islamico, i dittatori, insomma, peraltro in un certo senso anche il presidente egiziano, sebbene sia stato eletto con un plebiscito un po' pilotato, come i dittatori precedenti, si limitavano semplicemente a congelare la situazione. Cioè, se Gheddafi non fosse stato buttato giù con l'aiuto degli occidentali, il problema della Libia si sarebbe rilevato 5 anni dopo, 6 anni dopo, 10 anni dopo, ma non erano i dittatori la soluzione, è solo uno sviluppo lento democratico. La Tunisia ci sta provando e per questo credo che abbia il diritto di avere tutto il nostro appoggio, anche e soprattutto economico. Grazie ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, per il suo commento e per la sua analisi. L'indagine, cambiamo argomento, sulla cooperativa modenese CPL Concordia, è indagato anche un ex parlamentare. Dopo gli arresti per gli appalti della metanizzazione dell'isola d'Ischia affidati alla cooperativa rossa CPL Concordia, l'inchiesta della DDA partenopea approfondisce gli appalti del casertano, che hanno interessato in particolare l'agro aversano e i rapporti con il clan del Casalesi. Oggi sono state eseguite 8 misure cautelari, una ha interessato un ex senatore del PD ed ex componente della commissione antimafia Lorenzo Diana, per il quale è stato emesso un divieto di dimora in Campania. Gli vengono contestati l'abuso di ufficio e il concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex parlamentare, noto per il suo impegno contro la malavita, a caldo ha commentato di sentirsi come in un sogno o su scherzi a parte. Una delle ordinanze di arresto invece è stata recapitata all'ex presidente della CPL Concordia Roberto Casari, già ai domiciliari per una precedente ordinanza ricevuta a marzo riguardante gli appalti di Ischia. Altre 2 sono state recapitate a imprenditori ritenuti referenti dei clan. Tra le accuse contestate a vario titolo dalla DDA di Napoli, associazione per delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E un'altra indagine che ha coinvolto le cooperative è quella su Mafia Capitale. Il comune di Roma si costituisce parte civile. Il sindaco Marino lo aveva annunciato già subito dopo la prima ondata di arresti nel dicembre dello scorso anno. Dagli annunci ora si passa ai fatti. In giornata il comune di Roma si costituirà parte offesa nel primo processo su Mafia Capitale tra i 34 imputati del procedimento che è stato stralciato dalla più ampia inchiesta sul mondo di mezzo. Figura anche Massimo Carminati, l'ex esponente dei NAR, accusato di essere a capo di Mafia Capitale assieme al boss delle cooperative Salvatore Buzzi. Nel frattempo, mentre si attende il parere del prefetto Gabrielli sullo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, Marino ieri ha incassato il via libera del CONI alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Le opposizioni intanto insistono però nel chiedere le sue dimissioni. Ieri a protestare in Campidoglio è stata la lista Marchini. Il primo cittadino è costretto a fare i conti anche con i crescenti malumori dei romani. 7 su 10, stando ad un sondaggio di Repubblica, pur ritenendolo una persona onesta, hanno fatto sapere che se oggi si tornasse alle urne non lo voterebbero. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di corruzione torneremo a parlare più avanti con Daniele Biacchesi, come sapete il venerdì è il giorno della sua inchiesta, così come il lunedì. Oggi riunione del Consiglio dei Ministri, che in realtà è stata sospesa negli ultimi minuti, forse al centro, ma c'è incertezza, anche il decreto per sbloccare lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Così, la riunione del Consiglio dei Ministri, cominciata alle 11.30, è stata sospesa da poco e riprenderà alle 18.30. Sul tavolo dovrebbe esserci l'atteso decreto d'urgenza per il dissequestro dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, cantiere, ricordiamo, fermo da lunedì con quasi 5.000 persone a casa dopo il sequestro deciso dal Tribunale di Gorizia su alcune aree destinate alla lavorazione e allo stoccaggio di residui da lavorazione. In sostanza si tratterebbe per semplificare, di un sequestro dovuto ad un'interpretazione, come dire, restrittiva delle direttive europee in materia ambientale, perché non sarebbero stati ravvisati pericoli ambientali. Dunque una questione prettamente burocratica, tant'è che la vicenda ha scatenato nei giorni scorsi molte reazioni polemiche, visto che appunto per questioni burocratiche si è di fatto fermato uno dei principali cantieri italiani di Fincantieri, e sul caso era intervenuto anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, criticando il sequestro. E la soluzione potrebbe essere dunque quella di inserire nel provvedimento l'interpretazione autentica della direttiva europea che disciplina lo smaltimento di rifiuti. Vedremo se il decreto verrà licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri. In questo modo l'azienda potrebbe poi far ripartire la produzione. Sul tavolo in agenda c'è anche un primo esame del provvedimento che riguarda la creazione di una banca dati del DNA, tema su cui lavorano da tempo il Ministero dell'Interno e della Giustizia, e il decreto per la partecipazione alla missione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo, UNAFOR Med. E con questo è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Adesso andremo a sentire che cosa succede sulle strade, poi abbiamo molti altri argomenti, ritorneremo sulle vicende della Grecia e sulle vicende europee, ritorneremo a parlare di Tunisia e lo faremo con un deputato di Ennahda, un deputato che parla italiano, che è un partito tunisino islamico, di ispirazione islamica, e parleremo anche di Milan perché oggi c'è stata la presentazione di Mihai Silvio Berlusconi, che ha fatto un piccolo show. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. In Grecia, secondo i sondaggi, è testa a testa tra il sì e il no, ma il 74% vuole restare nell'euro. I costi per l'Italia in caso di Grexit, la stima di 11 miliardi è eccessiva, dice il Tesoro. Le aste di titoli di Stato saranno regolari. Si è aperto il processo per l'assassinio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti alla sbarra. Scontri in Tunisia nel giorno della chiusura delle moschee a Sousse, luogo dell'attentato di venerdì scorso. Altri 6 arresti nell'indagine sulla cooperativa modenese CPL Concordia per appalti nel casertano e rapporti coi casalesi. È indagato anche un ex parlamentare. Prima di tornare alla Grecia, prima di tornare a quello che succede in Tunisia, un punto calcistico: c'è Carlo Genta qua in studio con me, nei nostri studi di Expo, anche oggi tutti convocati. Andrà in onda da qua, Carlo, per parlare di Milan oggi. Beh, Milan che tiene banco, c'è stata la presentazione, hai detto giustamente tu, lo show di Berlusconi che, come al solito, ha pronunciato le magiche parole: questa rosa ha le qualità e le caratteristiche per vincere lo scudetto. Poi ha detto prioritario è tornare in Champions League. Insomma, un Milan da scudetto competitivo con la Juventus ancora non lo vediamo. Poi Berlusconi ha parlato molto di mercato, ha detto Jackson Martinez costava troppo, quindi abbiamo deviato su Bacca. In realtà sembra questa un po' la storia della Volpe e dell'Uva. C'è un altro aspetto interessante: Berlusconi ha detto consegnerò a Mihajlovic una rosa di 30 giocatori, di 31 giocatori, al momento sono 30, e quindi balla quest'altro nome. Molti pensano che possa essere quello di Zlatan, o sperano che possano essere quello di Zlatan Ibrahimovic. Ho parlato dei tifosi dicendo che i tifosi del Milan sono stufi di leggere critiche, se continuate a scrivere critiche non compro più i giornali. Questa è un'altra battuta di Berlusconi. Comunque un Milan in fase di costruzione, di ristrutturazione, ha già speso una cinquantina di milioni di euro tra Bertolacci e Bacca, altri giocatori o un altro giocatore, stando a sentire Berlusconi, arriverà. Berlusconi ha detto quest'anno mi presenterò molto presto agli allenamenti, andrò via molto tardi, non so se per Mihajlovic possa essere un buon segnale, però questo è il Milan Day, è andato così. Vedremo e sentiremo le voci in tutti i convocati a partire, certo, dalle 14. Noi torniamo adesso agli argomenti della Grecia. Saluto Enzo Moavero Milanesi, è direttore della School of Law della Luis Guido Carli di Roma ed è stato ministro delle politiche comunitarie nel governo Monti. Buongiorno e benvenuto Moavero. Buongiorno, buongiorno. Allora, vorrei sapere, secondo lei, che anche, come dire, continua a conservare parecchi contatti con Bruxelles, come andrà a finire? Beh, vede, il come andrà a finire dipende in primo luogo non tanto da Bruxelles quanto dall'esito del referendum che si tiene in Grecia domenica. È un referendum particolare perché riguarda una questione che ha assunto contorni vitali, ma che alla base ha degli elementi estremamente tecnici e complessi, anche se poi, trattandosi di nel suo impatto sulla vita reale, di un qualche cosa che ci tocca tutti, la percepiamo in maniera parziale chiunque di noi. E quindi un referendum difficile anche nella risposta, che bisogna vedere nei votanti se sarà più di testa, più magari di pancia, come si suol dire, più alla luce delle scelte politiche, degli ideali, e se questi ideali saranno europei o nazionali. Quindi un test di democrazia interessante per l'Europa, da cui dipenderà molto di ciò che potrà seguire. Se il referendum darà un esito favorevole questo naturalmente per il governo greco rappresenterebbe un elemento di riflessione critica, perché il governo greco sta facendo attivamente la propaganda per il se mi permette chiedere questo. Sostiene il governo greco da due giorni, è tornato a ribadirlo questa mattina il ministro delle finanze Varoufakis, dice anche se vince il no si torna al tavolo delle trattative. È una domanda che abbiamo già rivolto al nostro collega Vittorio Darold, che insomma ormai da anni si occupa della crisi greca. Quello che voglio capire da lei è se è una frase credibile oppure no, cioè se nel caso di un no si riapriranno le trattative o se dobbiamo già pensare appunto ad una uscita della Grecia dall'euro. La mia opinione è che le trattative, intese in senso ampio del termine, si apriranno, continueranno per dire meglio, in ogni caso, sia se l'esito fosse a favore del sì, sia che l'esito fosse a favore del no, perché comunque bisognerà affrontare la ricerca di una qualche forma di soluzione, che non significa risolvere il problema nella maniera ideale, ma significa gestire quanto dovrà essere gestito all'indomani del referendum. Quindi anche perché la interrompo, Mavero, ballano 130 miliardi dei creditori qua, quindi non è poco. 130 miliardi dei creditori, ma se la domanda base rispetto all'affermazione del ministro Varoufakis è ci si siederà al tavolo delle trattative oppure non ci si saluterà più e ci si manderanno solo, si restituiranno le rispettive credenziali, naturalmente ci si siede al tavolo delle trattative. Però evidentemente se l'esito del referendum fosse il sì, ci si siede al tavolo delle trattative per trovare quel tanto di quadra necessario rispetto alle posizioni che erano state espresse nei giorni scorsi, che sono poi andate verso una rottura del negoziato. Se l'esito fosse il no, si aggiunge una variabile politica europea importante, perché saremmo di fronte a un responso popolare che sostanzialmente si contrappone alla ricetta consensuale che si stava cercando in Europa. E questo naturalmente è una terra più incognita della precedente. Per usare parole che ha utilizzato anche il governatore, il presidente della banca della BCE, Mario Draghi, cioè ha detto insomma in caso di uscita ci sarebbe una terra incognita, vedo che ricorre questa frase. La ringrazio, grazie ad Enzo Moavero Milanesi, direttore della School of Law della Luis Guido Carli di Roma, per essere stato con noi, ed ex ministro delle politiche comunitarie, per la sua analisi. All'ascoltatore che ci dice perché non approfondite il blocco dei Fincantieri, diciamo che lo abbiamo fatto ampiamente nei giorni scorsi, stiamo sostanzialmente continuando a farlo, in queste ore siamo in attesa di un eventuale decreto del governo. Torna da noi Osama Al-Saghir, è un deputato di Ennahda, Rinascita, è un partito tunisino, un partito di ispirazione islamica, col quale vogliamo commentare quello che sta succedendo in queste ore nel paese. Bentornato. Grazie a voi. Allora, Al-Saghir, il governo ha proceduto con una chiusura di alcune moschee considerate sospette. Questo ha generato anche degli scontri e delle violenze questa mattina a Susi, il luogo dove è avvenuto l'attacco all'hotel, alla zona turistica. Vorrei capire voi, dal vostro punto di vista, voi non siete al governo, non siete in maggioranza, come giudicate questa scelta dell'esecutivo? Grazie per questa opportunità. In realtà, dopo questo attentato, sono una serie di decisioni che sono state prese, importantissime, perché questa guerra al terrorismo è una guerra lunga, non è una guerra facile, non sono provvedimenti semplici da prendere, ma è una strategia della quale si sta occupando non solo il governo, ma anche il Parlamento, con tutto un insieme di leggi che stiamo facendo. Il caso che delle moschee in realtà è un processo che è iniziato già da 2 anni, dal governo del 2013, quando il terrorismo e l'estremismo iniziava ad essere ancora abbastanza presente. Ancora prima dell'ISIS nell'Iraq, però avevamo già appunto degli scontri forti. Ovviamente abbiamo iniziato a notare che ci sono dei discorsi violenti e dei discorsi appunto che sono spesso anche contro lo Stato, che fanno una distinzione all'interno della nostra popolazione, e questo è inaccettabile. Per cui in realtà sono state già prese alcune provvedimenti in questo senso, sia quando eravamo noi a testa del governo, oppure quindi, anche adesso. Ci faccia capire, Al-Saghir, la strategia del governo per contrastare il terrorismo è una strategia, diciamo, di unità nazionale, cioè da quel che capiamo, da quel che ci sta dicendo, in realtà un certo sostegno da parte vostra in questa strategia c'è? Assolutamente, noi l'abbiamo iniziato. Ovviamente i grossi attentati sono avvenuti adesso, purtroppo, con questo governo, che tra l'altro noi sosteniamo e abbiamo sopportato, l'abbiamo votato e continuiamo a sopportare. E queste misure in realtà sono state anche studiate con noi, tra i partiti che sostengono il governo, ma in realtà, come ha detto lei, c'è un certo sostegno nazionale da parte di tutte le parti, non soltanto le parti politiche, ma anche le organizzazioni nazionali come quelle del lavoro, quella del business, e quindi in realtà c'è una strategia forte. E la questione delle moschee, è chiaro che se c'è qualche imam che parla contro la legge e divide la società tunisina, divide il popolo tunisino, invita alla violenza, senza nessun dubbio noi siamo contro. Tutto questo avverrà nel rispetto dei diritti umani, nel rispetto della libertà d'espressione, nel rispetto della nuova Costituzione che abbiamo scritto in Tunisia, che tutto il mondo ha apprezzato per i valori della democrazia, del rispetto del pluralismo che c'è, ma nello stesso momento no alla violenza. È impossibile fare una cosa del genere. C'è un'ultima domanda che voglio farle prima di salutarla e ringraziarla, e riguarda il grande problema del turismo. A questo punto, questo attacco ha colpito al cuore uno degli elementi centrali della vostra economia, così come è successo con l'attentato al Bardo. Immagino ci sia una grandissima preoccupazione proprio per l'economia tunisina. È chiaro che questi gruppi non colpiscono così a Bambera, hanno una strategia ben precisa. Anche il momento in cui hanno colpito, quindi tu hai 3 posti diversi, dal Kuwait alla Tunisia, alla Francia, e poi senza legarli nello stesso giorno, in realtà questi gruppi ben connessi, ben collegati fra di loro, sono attivi in Europa, sono attivi nel Nord Africa, sono attivi nel Medio Oriente, ed è chiaro che lavorano insieme. E quindi colpire non soltanto per uccidere, ma uccidere anche per distruggere questi paesi e distruggere le loro economie. Quindi sono persone che purtroppo stanno facendo una strategia, e noi di conseguenza stiamo lavorando. E sappiamo bene che da soli non ce la faremo, sappiamo invece che uniti con i paesi del Nord Africa, uniti con i paesi dell'Unione Europea, e in una strategia insieme, affrontarli insieme per non lasciare loro che ci attaccano insieme ma noi siamo separati. E quindi serve una strategia addirittura internazionale su questo. E fammi dire un punto che a noi in realtà fa riflettere molto. In 30 secondi, è che se facciamo una velocissima valutazione dal 2001, senza tornare indietro, questa nuova forma di terrorismo dal 2001 a oggi, purtroppo la strategia internazionale fino ad oggi non ha funzionato, perché se in quei momenti Al-Qaeda aveva qualche campo di addestramento super nascosto che noi cercavamo con i satelliti, oggi hanno uno Stato, hanno dei territori che controllano, hanno una quantità di armi incredibile. Serve una nuova strategia molto più forte. Non possiamo permettere a ragazzi di 21 anni, di 24 anni, di essere strumentalizzati, utilizzati da queste persone per uccidere. È una cosa inaccettabile. La ringrazio, grazie ad Osama Al-Saghir, deputato di Ennahda, per essere tornato da noi, e anche alla fine, lo vedo dagli sms degli ascoltatori che stanno arrivando, per le parole che ci ha detto. Ci fermiamo, c'è una pausa, c'è la borsa e poi torniamo a parlare ancora una volta di corruzione. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In Grecia, secondo i sondaggi, testa a testa tra il sì e il no. I costi per l'Italia in caso di Grexit, la stima di 11 miliardi è eccessiva, dice il Tesoro. Si apre il processo per l'assassino di Yara Gambirasio, Bossetti alla sbarra. Scontri in Tunisia nel giorno della chiusura delle moschee a Sousse, luogo dell'attentato di venerdì scorso. Altri 6 arresti nell'indagine sulla cooperativa modenese CPL Concordia, indagato anche un ex parlamentare. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione di temi collegati alla corruzione, all'indagine sulla cooperativa modenese CPL Concordia, il fatto che il Comune di Roma abbia deciso di costituirsi parte civile nel processo su Mafia Capitale. Ieri vi abbiamo raccontato della relazione annuale del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. A questo tema, al tema della corruzione, è dedicata l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. C'è una missione di impotenza nella relazione del Presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone. I piani contro la corruzione sono insufficienti, dice. Ecco perché oggi la corruzione resta la malattia endemica tutta italiana. Per dirla con il linguaggio utilizzato da Cantone, un vero e proprio tumore sociale, un fenomeno sistemico, inserito in un sistema gelatinoso in cui si fa persino fatica a dire chi è il corrotto, chi è il corruttore. Eppure dal febbraio 1992, esattamente dall'inizio di Tangentopoli, numerosi magistrati italiani sono impegnati in un'indagine senza fine, che, sebbene in tanti rivoli, ha azzerato intere classi politiche e dirigenziali, ha ribaltato assetti istituzionali, descritto fin troppo bene l'intero sistema corruttivo del nostro paese. Ma l'opera, seppur meritoria, non è servita a scardinare la mala pianta che resta, insieme alla presenza soffocante della criminalità organizzata, uno dei motivi di freno della crescita economica sana italiana. I dati dimostrano le vere difficoltà. Cantone ha illustrato i primi dati relativi a oltre 1300 amministrazioni, che evidenziano un risultato in chiaroscuro. Da un lato il 90% delle amministrazioni ha adottato un piano anticorruzione, ma dall'altro la qualità dei documenti è in molti casi insufficiente. Ma c'è molto di più. Ad esempio, secondo Legambiente, sono ben 233 inchieste ecocriminali in cui la corruzione ha svolto un ruolo cruciale. La Lombardia è la prima regione dove il fenomeno corruttivo si è maggiormente diffuso. 31 indagini penali, seguita da Sicilia 28 inchieste, Campania 27, Lazio 26, Calabria 22, dal Mose di Venezia ad alcuni cantieri dell'alta velocità, dai grandi eventi alle ricostruzioni post-terremoto, dalla gestione dei rifiuti all'enogastronomia e alle rinnovabili. Il fenomeno è nazionale, tanto che la percezione della corruzione delle istituzioni governative in Italia sfiora il 90%, al top tra i paesi OCSE. 90%, avete capito bene? La sfida contro la corruzione diventa dunque una delle prime emergenze del nostro paese.